mani sul tuo cuscino, guardo fuori dalla finestra, la luna è triste come me e sono qui, sento l'odore dei tuoi capelli come un vento assai leggero, mi carezzano come un velo, li sento, mi toccano, li sento, mi parlano. Guardami negli occhi e dimmi perché non sentivi le sue parole, eri pieno di te. Tanti erano i presagi, tanti erano i messaggi, andavi sempre avanti controcorrente. Guardami negli occhi e dimmi perché non sentivi le sue parole, eri pieno di te. Tanti erano i presagi, tanti erano i messaggi, andavi sempre avanti controcorrente. Queste coperte, sento quei momenti, la malinconia mi assale, sono qui, mi giro in questo letto, il calore del tuo cuore non mi fa più compagnia, ti cerco nell'aria, ti cerco con l'anima. Guardami negli occhi e dimmi perché non sentivi le sue parole, eri pieno di te. Tanti erano i presagi, tanti erano i messaggi, andavi sempre avanti controcorrente. Guardami negli occhi e dimmi perché non sentivi le sue parole, eri pieno di te. Tanti erano i presagi, tanti erano i messaggi, andavi sempre avanti controcorrente.